La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è la Rosa Purpurea, un programma davvero speciale quello che va in onda in questo fine settimana, il nostro classico appuntamento con il cinema, un programma speciale per orario e con locazione, perché vi parliamo dall'Expo di Milano, esattamente dal padiglione Cibus Italia, qui all'Expo di Milano, in rappresentanza insomma del meglio della produzione agroalimentare italiana, per una rosa purpurea che appunto racconterà come sempre tutto il cinema che c'è, soprattutto in sala in questo fine settimana. Lo farà con ospiti al telefono, ma vivendo anche qui una sua dimensione live in quella dell'Expo di Milano, sempre molto frequentato, con tutti questi colori del mondo che lo inondano dalla mattina alla sera. E allora entriamo nel vivo della trasmissione, come sempre le prime cinematografiche, le uscite di questo fine settimana, le classifiche, le recensioni di quello che si può andare a vedere. Il caldo comincia a farsi sentire e quindi il cinema diventa un rifugio condizionato, almeno come la sua aria, interessante per poter magari vivere anche qualche brivido, come il caso del primo film del quale vogliamo parlarvi in questa puntata. Molto spesso l'estate è stagione di horror in Italia, ed ecco che arriva in sala un film come Poltergeist, che nel titolo almeno ricorda e ne è di fatto un remake un po' aggiornato, uno dei capisaldi dell'horror anni 80. Ve lo ricorderete, il Poltergeist originale, nel quale il pericolo arrivava dalla televisione, che di fatto, come dire, acquisiva le anime degli ignari abitanti di una casa. E questa volta appunto il film riprende un po' quelle atmosfere con la regia di Jill Cannon, con Sam Rockwell tra l'altro nel cast, quindi anche un tocco di come dire, di notorietà in questo cast. Andiamo ad ascoltare la clip e poi cominciamo a collegarci con Boris Sollazzo. È impossibile vivere qui, ci sono i cavi elettrici. Vuoi vedere un trucco? Che tipo di trucco? Mamma, ci piace questa casa! Sembra che le cose vadano un po' meglio. Sta arrivando una tempesta. Non fare il piagnucolone, Griffin. Non ho paura. Come arriverai qui? Con chi stai parlando? Non ho mai visto nulla del genere. È un poltergeist nuovo, molto più potente. Svuotate la mente. Sanno cosa vi spaventa. E allora, le atmosfere di Poltergeist, Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno. Ecco, ti sentiamo un po' a scatti, Boris. Se sei con noi o se non sei stato ancora rapito dalla essenza maligna di Poltergeist, batti un colpo e raccontaci un po' cosa ne pensi di questo film, Boris. Beh, cosa ne penso? Intanto che ci ricorda Poltergeist che bisogna scegliersi bene l'agente immobiliare, perché come niente rischia di portarci una casa posseduta o che è stata costruita su un cimitero. E detto questo Poltergeist è un remake davvero che rientra in tutti gli stereotipi di quello che è un genere, appunto quello dei rifacimenti, che se non viene trattato con molta cura si perde nei meandri della mediocrità e della incapacità di ritrovare la forza e lo spirito dell'originale. Questo Poltergeist conferma due cose: uno, che Sam Rockwell, per quanto possa aver toccato vette di notorietà, è un attore piuttosto scarso, e anche in un horror fa la sua pessima figura. L'altra, che non bisognerebbe maneggiare dei classici così straordinari come quello di Hooper e Spielberg se non si è in grado poi di reggerne la potenza, la forza. Qui invece c'è l'impressione che Cannon, anche con molto buon senso, cerchi di arrivare velocemente alla fine per non dover avere più il problema di questo forte paragone. Quindi sembra davvero una copia sbiadita, molta superficialità, molta sbrigatività nell'arrivare alla fine, e si sfrutta il momento attuale della tecnica e degli effetti speciali, chiaramente migliore rispetto all'originale, per sfruttare idee che appunto risalgono però a quel film là, quindi francamente Poltergeist, davvero questo Poltergeist mi ha deluso. La cosa più bella sembra realmente il manifesto che invita ad andare almeno gli appassionati di horror. Sì, manifesto Boris, che tra l'altro richiama più It di Stephen King, esatto, se vuoi, che non il Poltergeist originale, che tra l'altro doveva la sua forza, io lo ricordo da ragazzino, insomma era abbastanza terrorizzante, ricorda la sua forza anche sulla base di un realismo della recitazione, cioè tu ti trovavi veramente dentro quella situazione che mi pare dalle tue parole qui scompaia un pochino. No, assolutamente d'accordo, lì in qualche modo eravamo dalle parti dell'horror che cominciava a considerare la TV un nemico, no? Pensiamo anche a Videodrome e via dicendo. E il problema è proprio che in quel caso l'incredibile diventava verosimile, e qui anche il verosimile invece diventa del tutto non credibile e si perde tutta la forza che tu hai abilmente inquadrato dell'originale, il fatto che entravamo nell'incubo convinti che potesse accadere. Ecco, diamo un'occhiata un po' alla classifica per vedere se questo Poltergeist, che è anche molto pubblicizzato in questo fine settimana, possa scalfire le vette della classifica italiana, che si è fatta un po' più timida con l'uscita di Ted 2, che comunque è balzato al primo posto con 1.300.000 euro nel primo weekend di programmazione, davanti a Jurassic World, che per questa stagione è davvero un grande successo. Jurassic World, che ha toccato ormai i 12 milioni di euro globali, davanti a Torno indietro e Cambio vita, che invece è partito in maniera molto molto tranquilla, diciamo così, con 248.000 euro di incasso, davanti a Ruth e Alex, Unfriended, tanto per rimanere a un altro horror, e a Contagious con Schwarzenegger, ma insomma tutti con incassi davvero molto molto modesti, e chiaramente in questo appunto la stagione si fa sentire. Se c'è il blockbuster che funziona, funziona, altrimenti chiaramente c'è un po' di chiusa. Tra l'altro di questo parleremo fra poco con Lionello Cerri, che ci racconterà un po' questo primo esperimento a Milano di una cinema all'aperto multisala. Vi chiederete, ma come fanno a esserci due o tre schermi nello stesso posto all'aperto e a non disturbarsi uno con l'altro? Ce lo spiegherà Lionello Cerri, ma questo è un altro tentativo di quelli che vogliono andare nella direzione di allungare la stagione, che è una cosa che io sento dire da quando mi occupo di cinema, ovvero da 25 anni, allungare la stagione estiva, cercare di, ma insomma vediamo che i tentativi poi a volte non vanno sempre a buon fine. Voglio solo dire che in America invece Jurassic World ha raggiunto i 500 milioni di dollari di incasso, è ancora primo in classifica anche questo fine settimana, ha battuto film come, pensate, Inside Out della Disney, che è un altro grande, grande successo, lo stesso Ted 2 che è partito proprio in questo weekend negli Stati Uniti, ma insomma Jurassic World è davvero un incasso record che ci fa pensare a come quell'operazione abbia raccolto, come dicevamo anche qui alla Rosa Purpurea, un po' l'effetto nostalgia di chi aveva visto o letto i primi Jurassic, e un po' anche un nuovo mondo di adepti del dinosauro, tra cui molti molti ragazzini. La Rosa Purpurea. Thinking about tomorrow, clears away the cobwebs and the sorrow, till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun'll come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. E beh, questo è un momento del film Annie del 1982, quando la piccola protagonista, appunto Annie, la bambina con i capelli rossi, canta a cappella, come si dice, questo Tomorrow, che è diventato sicuramente il brano più importante, più famoso di tutta la colonna sonora di questo straordinario musical, che adesso ripreso in mano anni dopo da una forza come quella di Jamie Foxx, con la bambina che diventa Quinzine Wallis, è una bambina che avete, come dire, scoperto per alcuni film recenti, tra cui Re della Terra Selvaggia e 12 anni schiavo, e quindi abbiamo una Annie di colore questa volta, non una Annie irlandese come quella dell'82, con le musiche riarrangiate in questa edizione. Alla regia non c'è certo il grande talento di John Huston, c'è Will Gluck, ma insomma il film scorre con tutti i crismi di quello del 1982. Abbiamo detto di Jamie Foxx, un cast molto molto completo, con Cameron Diaz per esempio anche. Boris, nel musical chiaramente il remake è, diciamo così, è una sorta di sottogenere, nel senso che le musiche, le canzoni, le note sono quelle, si cerca di riattualizzare la vicenda che in questo caso è quella di una bambina. In fondo nel plot c'è molto della letteratura classica britannica, una bambina che viene ospitata per una settimana nella villa di un miliardario, appunto la piccola orfana Annie, conquista tutti, ma a un certo punto arriva la Rottenmeier del caso, la direttrice dell'orfanotrofio, che si oppone alla decisione di adottarla, che avrebbe appunto assunto il miliardario. Plot classico quindi, ma ambientazione moderna. Quanto è riuscito questo riadattamento, questo remake di questo classico del musical? Beh, a mio parere pochissimo, anche perché ci sono delle storie che non possono essere riutilizzate con la costanza con cui è stata riutilizzata Annie, che dagli anni 30 all'82 e anzi addirittura agli anni 90 si è ritrovata dalle strisce di fumetti sui quotidiani fino al musical a Broadway, per passare al cinema e arrivare fino in TV, ogni volta a interpretare un momento storico, un momento dell'economia americana diverso, perché nasce con, racconta poi anche John Huston molto bene, un racconto emotivo che aiuta un grande miliardario, che non a caso si chiama Warbucks, che vuol dire dollari di guerra, ad aderire al New Deal rooseveltiano, e finisce adesso con questo nuovo remake cinematografico a raccontare l'America post-razziale di Obama. Il punto è che però il modo in cui racconta l'America post-razziale di Obama è la visione invece del New Deal rooseveltiano di un tempo, ovvero con una visione della segregazione che a quel tempo esisteva e che adesso è nei fatti, molto romantica, molto stereotipata, e quindi anche con l'idea che il problema del razzismo possa essere vinto con la carità e con l'iniziativa individuale, il che sembra davvero riduttivo nel 2015. Quindi al di là di questo aspetto ideologico, che veramente non riesce ad aggiornarsi minimamente, e visto che Annie rappresenta un'opera programmatica e fondamentale, e poi il tutto si fonda sul carisma, a dir la verità, annacquato di Jamie Foxx, e su invece questa ragazzina che stava nel Re delle Terre Selvagge, che è straordinaria, che è veramente l'unica parte buona del film. La sua presenza illumina spesso un'opera mediocre e consente di renderla perlomeno godibile in alcuni momenti. Trovo però che tutto quello che poteva essere Annie anche in un remake, anche in questo momento storico, e non è stato, sia in termini di intrattenimento sia in termini di significato politico, è veramente delittuoso averlo trattato in questa maniera, con questa superficialità. Ecco, se vogliamo dire una cosa, i primi due film di cui abbiamo parlato hanno questa caratteristica, non solo di essere remake, ma di essere estremamente superficiali nel trattare la materia originale. Abbiate cura di nostra figlia, si chiama Annie. Giù dal letto, ha chiamato il municipio, mandano un ispettore. Niente colazione finché la casa non brilla. Sì, signorina Elligan. Perché corri? Perché così arrivo prima. Ragazzini. Will, una manna per la tua candidatura. Piacerà a tutti sapere che hai salvato un'orfanella che stava per essere investita. Will Stax vorrebbe portare Annie fuori a pranzo. Scherzo. Dov'è la fregatura? Se uccidono insieme, meglio è per la mia campagna. Non tradirò il tuo segreto. Ti sei affezionato. Cavolo, i miei capelli sono esagerati. E allora questo era Annie, che tra l'altro continua a essere un musical di grande successo a Broadway. A questo punto giochiamo insieme, perché come sempre, anche in questa puntata speciale qui dall'Expo di Milano, vi regaliamo i film più belli di questa e delle passate stagioni. Sentiamo la prima clip del film misterioso. Abbandoni la partita? No. Mi rimane da giocare ancora l'ultima carta. Ma non avrei mai voluto usarla. Non è leale. Ecco la clip che insomma tradisce un po' di anni di età. E qui questo potrebbe un po' orientarvi nel provare a capire di che film si tratta. Scrivercelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere una delle due copie di questo film che sveleremo la prossima settimana. Fra qualche minuto però restate con noi perché vi faremo ascoltare un'altra clip. Andiamo avanti con i film di questa settimana, le novità al cinema, le novità in sala, con un film che denuncia, diciamo, la sua provenienza commediara sin dal titolo, Duri si diventa. Sentiamo la clip. James King, sì? In arresto per frode e appropriazione indebita. 10 anni da scontare in un carcere di massima sicurezza. Sono rovinato. Insegnami a sopravvivere in prigione come hai fatto tu. Come sa che sono stato in prigione? Data la tua condizione economica. Che cosa? È un'evidente mancanza di istruzione superiore. Manca... Statisticamente è certo che sei stato dentro. Cosa hai fatto per fargli credere di essere stato in prigione? Basta essere nero. Non sei esattamente un delinquente. Basta parlare con un tono di voce basso. Ok, buonanotte. Oh! Che c'è? Alziamo i tacchi, Maio. Chi è Maio? È il mio nome da gang. Sta per maionese. E allora, questo è la clip, la presentazione di questo film, Duri si diventa, Boris, Will Ferrell, Kevin Hart, qui una strada decisa per quanto riguarda il tipo di commedia, cioè quella che spinge a tavoletta un po' sulla commedia spinto demenziale, con Will Ferrell a tenere in piedi il film. In questo caso la superficialità diventa invece un'arma, lo stereotipo idem. Nella commedia demenziale il meglio che si possa fare è prendere un luogo comune e mostrarne la stupidità, e Will Ferrell con quella sua faccia da uomo medio ma quel suo talento da genio vero riesce benissimo a incarnare la stupidità dell'uomo vero e a mostrarcela, e questo già rappresenta un punto di forza per il film. Che cos'è Duri si diventa? È il racconto dei 30 giorni che un riccone deve vivere prima di entrare, come si sente nel trailer, in un carcere di massima sicurezza perché ha preso 10 anni. Conosce un nero, Kevin Hart, ottimo comico, anche se al cinema mai del tutto sfruttato, ha lo stesso problema di Adam Sandler, col mezzo non ha un ottimo rapporto, e in quanto nero e in quanto con un'istruzione minore della sua e senza i suoi soldi, lui lo bolla come probabile ex pregiudicato, come probabile ex carcerato. Kevin Hart capisce che ci può guadagnare allenandolo a diventare un duro, e quindi per soldi accetta di passare per quello che non è. In verità il criminale tra i due è il bianco, e quello anche raffinato e sicuramente onesto è il nero. Ovviamente da questa realtà, da questa rete di equivoci, nasce un film molto molto divertente in cui Kevin Hart, probabilmente rendendosi conto di non essere al cinema efficace come in altri luoghi, decide di fare da spalla a Will Ferrell, e Will Ferrell è letteralmente straordinario, prende il posto sostanzialmente di tutti, del regista, dello sceneggiatore, scrive il film con le sue facce, riempie le falle di sceneggiatura e anche quella superficialità di cui parlavamo, di un film che poteva forse essere ancora più cattivo e corrosivo. Mi viene in mente l'immagine in cui la moglie di Will Ferrell apre gli occhi e vede un enorme anello molto pacchiano, sicuramente molto costoso, quell'anello è sulla sua mano e lei sorride soddisfatta di questo segno di opulenza che può vedere solo lei. Ecco, forse ci poteva più insistere, più pigiare l'acceleratore anche su questa lotta di classe, tra virgolette, che poteva rappresentare questa commedia demenziale, ma la verità è che si ride abbastanza. Will Ferrell funziona, il messaggio anche su questa differenza di classe arriva, e quindi nella moria e nella penuria anche di contenuti che c'è in questa settimana, Duri si diventa diventa davvero, scusate il gioco di parole, il film della settimana. Ecco, ricordiamo regia di Ethan Coen, che non è l'Ethan Coen che vi aspettate, cioè quello dei due fratelli. Qui manca una H dentro Ethan, è invece un giovane sceneggiatore statunitense di origini israeliane, 41enne, che qui esordisce alla regia. Ma come diceva Boris, quando c'è un attore mattatore, come in questo caso Will Ferrell, insomma, quasi la regia non serve, basta guidare la macchina e far sì che non esca di strada, e poi tutto il resto procede da solo. Boris, rimani con noi, perché fra poco, nella moria, come l'hai definita tu, di questo fine settimana, ci aspetta un altro film, forse quello che aveva, se vogliamo, sulla carta le maggiori ambizioni, Predestination, con Ethan Hawke, che lo analizziamo fra poco. State con noi, perché è un film che si presta ad alcune analisi. A fra poco. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, la terza parte del nostro programma. Come dicevamo, abbiamo ancora un film di cui parlare in questa uscita settimanale. Non sono tanti i film, tra l'altro esce anche Naruto, La prigione insanguinata, ma sarà una serie di uscite che porteranno il personaggio dell'animazione giapponese un po' anche nelle prossime settimane in sala, quindi avremo tempo di parlarne nelle prossime puntate. Dicevamo invece, stavolta affrontiamo il tema di Predestination, un film che porta la firma di Michael Spierig e Peter Spierig, con Ethan Hawke protagonista. Anche qui siamo nella zona viaggi nel tempo, un agente speciale che viaggia nel tempo per catturare l'unico criminale che non è riuscito a catturare nel corso degli anni. C'è una linea di demarcazione temporale, il 1959, si va avanti, si va indietro, si torna un po' indietro, si va ancora un po' avanti, chiaramente ritrovando tutti i personaggi della propria vita più o meno invecchiati, ma potendo incidere sul loro passato e sul loro futuro. Chiaramente il piano di narrativo di questo film si presta ad essere piuttosto intricato, però c'è una ragione che tiene un po' insieme il film. Adesso fra poco analizzeremo con Boris Sollazzo se basta a tenerlo in piedi, a promuoverlo o meno. Andiamo intanto a sentire prima la clip. Cosa faresti se ti mettessi davanti chi ti ha rovinato la vita? Lo uccideresti? Quando sentirai queste parole saranno passati 7 anni e ora sei lì, all'inizio della tua nuova vita. Cosa sei, uno sbirro? Sono un agente temporale. Preveniamo i crimini prima che avvengano. Quello cos'è? Una macchina del tempo. Non superare il limite del salto temporale o avrai problemi. Per fermare Fizzle Bomber avrai una sola occasione. Io so da dove vengo, ma voi sapete da dove venite. E allora, questa è la clip di Predestination. Tra l'altro il nostro, l'eroe, si muove con una sorta di custodia di violino, che in realtà è una vera e propria macchina del tempo, nel quale inserire la data sulla quale ci si vuole spostare. Avete sentito di questo Fizzle Bomber, che è appunto questo criminale che non è mai riuscito a catturare e di cui forse, ricostruendo i passi, riuscirà a venire a capo. Boris, come dicevo, Predestination è uno di quei film che hanno le carte in regola per interessare una fetta del pubblico, quella appunto molto appassionata di questi salti temporali, anche di questi thriller con un po' di mistero. Però è anche vero che è un tipo di plot che, se non è gestito nel migliore dei modi dalla regia, rischia di sfuggire un po' di mano. È quello che è successo secondo te in questo caso, o insomma l'operazione è compiuta? Sì e no, diciamo che forse più che una fetta di pubblico, una setta di pubblico, nel senso che veramente quelli che amano questo tipo di genere sui viaggi nel tempo, è una fetta di pubblico, come dicevamo, che è quasi una setta, che ha le sue regole, ha i suoi valori, che è molto preparata anche sugli aspetti nozionistici che potrebbero inerire ai viaggi nel tempo. Ed è molto interessante questo esperimento narrativo e visivo che fanno gli Spirig, perché accettano queste regole anche molto difficili da seguire, accettano una sceneggiatura che deve essere semplice, perché non deve mai cacciare via lo spettatore, ma allo stesso tempo si fonda su architravi complessi. Un nostro collega, Gabriele Niola, li ha definiti film come cattedrali, grandi idee molto semplici fatte e costruite però su sistemi estremamente complessi, sia di calcolo che di appunto costruzione edilizia. E in questo senso gli Spirichi ce la fanno, secondo me, nel senso che portano avanti una storia molto particolare e riescono a nasconderla allo spettatore mantenendone alto l'interesse. Non sempre riescono a mantenere alta la concentrazione, anche perché in alcuni momenti, secondo me, hanno dei problemi forti con la stessa complessità che loro affrontano. Penso al fatto che costringono i due bravissimi attori che dovrebbero apparire, adesso non so come dirvelo senza svelare il film, però insomma Sarah Snook e Noah Taylor dovrebbero apparire in teoria come dei gemelli, diciamo, ecco, senza svelare nulla. C'è l'artificio di costringere uno di loro a fare un lungo racconto, una sorta di lungo, non so se dire flashback, flash forward, perché ovviamente parliamo di viaggi nel tempo. Però al di là di queste scorciatoie che forse erano necessarie perché era impossibile altrimenti mantenere l'incredulità nel pubblico, gli Spirichi portano avanti un film interessante. Qual è il problema di questo film? È che a un certo punto questa complessità viene al pettine e quindi si fa una enorme fatica a rimanere all'interno del film, a credere a quello che si sta vedendo, e c'è forse un Ethan Hawke che riesce anche lui ad essere in parte per tre quarti del film, per poi perdersi appresso alle incoerenze del suo personaggio, che poi, essendo quello che viaggia più nel tempo, vive anche le incoerenze dell'intera sceneggiatura. Mi rendo conto che è abbastanza complessa anche la mia recensione per essere capita, ed è ancora più difficile parlarne a chi non l'ha visto. Però assolutamente, infatti il tema è proprio quello, cioè cercare di non dire quello che non bisogna dire, esatto, ma di farsi ugualmente capire. Però Boris, però direi che è un film estremamente interessante e che dimostra che il viaggio nel tempo è allo stesso tempo il sogno di noi tutti e qualcosa che probabilmente non arriveremo mai a raggiungere. Mi interessa molto che due che hanno parlato dei viaggi nel tempo, con Curtis e gli Spirig, utilizzino poi un modo di viaggiare nel tempo estremamente semplice, fuori dalla credulità. Cioè Curtis fa andare i suoi dentro un armadio e lui usa la custodia di un violino, a dimostrazione che poi quella che raccontano è sempre una favola complessa che cerca la scienza, ma che poi vuole trovare il cuore, la parte bambina di ognuno di noi. E allora, questo per quel che concerne Predestination. Boris, grazie, qui dall'Expo di Milano, e a risentirci la prossima settimana. Alla prossima settimana e buongiorno. Oh, bene, bene, adesso fra poco parleremo di multisale all'aperto, che sembra una contraddizione in termini, ma non lo è. Prima però dobbiamo giocare con la seconda clip del film misterioso di oggi. Allora, Emilio, vuoi sposarmi? Beh, se dovessi dare una risposta esauriente alla tua domanda legittima, ma forse un po' troppo concisa. Sì o no? Momentaneamente, no. Beh, qui c'è una voce che dovrebbe indirizzare, cioè fare da filtro di ricerca, diciamo, per i nostri ascoltatori. La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie del film che sveleremo la prossima settimana. Bene, allora adesso salutiamo un ospite che è qui con noi in collegamento telefonico, Lionello Cerri. Ciao Lionello. Ciao. Ben ritrovato alla Rosa Purpura, era un po' che non eri con noi e ci mancavi un pochino, perché con te si chiacchiera sempre volentieri di cinema. Allora, Lionello, in questa settimana, che tra l'altro è abbastanza sintomatica, no? Solo 4 nuovi film in sala, se sembra una settimana fatta apposta per parlare di allungamento della stagione, però ti abbiamo chiamato soprattutto per un motivo, poi però non ci faremo sfuggire l'occasione di averti qui per farti un altro paio di domande, però il motivo è questa curiosità, insomma, che vi è venuta nel momento in cui ci è arrivato questo comunicato che parlava del fatto che Arianteo, che è l'arena estiva per antonomasia, insomma, dei milanesi da 25 anni a questa parte, quest'anno diventava una arena estiva multisala, cioè più schermi nello stesso spazio senza disturbarsi. E allora spiegaci com'è nata l'idea e come si fa. Beh, senz'altro è un'idea che è nata sia dalla necessità, ma anche da una voglia di stupire e di dare un servizio un po' diverso. Cioè, in pratica, di fianco all'Anteo c'è un bellissimo chiostro del Cinquecento, che è appunto il chiostro dell'Incoronata. E abbiamo pensato di fare due arene estive, cioè due schermi contrapposti, uno di 300 una sala di 330 posti, un'altra di 280 posti, e per non disturbarsi tra di loro, ma per sentire bene, eccetera, abbiamo diciamo così, acquistato delle cuffie wireless che ti permettono di vedere il film e di ascoltarlo in cuffia con il sound, che è senz'altro un sound avvolgente e molto, molto particolare. Non c'era in Italia, e quindi il fatto di fare anche una cosa un po' innovativa per i milanesi ci sembrava importante farla. In più è la prima arena all'aperto dove c'è il posto assegnato, quindi la gente arriva alle casse dell'Anteo invece che entrare in sala al chiuso, va in sala all'aperto, c'è il suo posto e quindi non fa le file e tutto quanto. Ecco Liorello, però giusto per fare l'avvocato del diavolo, l'ascolto in cuffia secondo te cinematograficamente non è un po' limitativo rispetto insomma, a quello che è l'impatto del sonoro in una sala cinematografica? Ma il meccanismo è quello del sonoro, chiaramente questo è un sonoro che ha una stereofonia ma c'ha anche tutti gli effetti nelle cuffie, quindi il suono avvolgente arriva dall'orecchio destro fino all'orecchio sinistro, sia sempre partendo dalle fonti dello schermo di quello che ti sta intorno. Quindi chiaramente il meccanismo dal punto di vista tecnico è lo stesso. Dal punto di vista, diciamo così, aggregativo, la cuffia ti permette magari di non sentire se un vicino parla e che quindi non ti disturba, ma magari tu stesso magari non puoi parlare col tuo vicino, però il cinema è fatto sia di aggregazione ma anche di, non dico contemplazione, ma il fatto di mettersi in una logica di inserirsi in un film. È l'esatto opposto che vedere un film a casa e quindi per questo secondo noi è molto interessante. C'è anche la possibilità, noi diamo delle cuffie all'ingresso, ma c'è anche la possibilità che se uno vuole portarsi la sua cuffia, eccetera, noi abbiamo dei trasmettitori, inserisce il jack e quindi usa la sua cuffia. Ecco. Certo, quindi assolutamente anche sotto il profilo della padronanza domestica quasi di questo strumento. È molto molto interessante come esperimento davvero questo di Arianteo con la multisala all'aperto, e anzi se lo provate potete sempre dirci cosa ne pensate sulla nostra pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24. Liorello, ti ho trattenuto per un paio di domande, te le faccio fra due minuti, rimani con noi perché voglio proprio sapere come stanno andando le cose in generale per il cinema italiano, e tu sei uno che lo sa osservare e lo osserva da tanti anni. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma, qui in diretta da Expo Milano. In collegamento con noi c'era e c'è Lionello Cerri, che ringrazio per aver atteso, perché oltre alla arena estiva multisala di Arianteo a Milano, c'è da parlare anche di un mercato cinematografico che sembra in ripresa. Queste cose si dicono sempre sottovoce perché non si sa mai come vanno a finire, ma per chi è abitué insomma del momento delle giornate del cinema di Riccione, di Cine, quest'anno è arrivato un sorriso. Mercato cinematografico del 2015 che è partito bene, da gennaio a giugno sono andati al cinema più di 51 milioni di spettatori, che sono il 5% in più dello scorso anno. Allora Lionello, c'è da sorridere, c'è da ridere, c'è comunque da stare cauti? Quanto di questo risultato è frutto magari di una stagionalità, del fatto che c'erano film che hanno funzionato più di altre volte, quanto di una rinata passione per il cinema del pubblico italiano? Ma di certo non c'è da piangere, quindi il fatto è che ogni anno è un anno a sé, conta molto il prodotto, ma conta moltissimo il sistema di distribuzione. L'anno scorso ci ricordiamo che abbiamo avuto un giugno, luglio, agosto senza nessun tipo di film appetibile per entrare in sala a vederlo. Quest'anno, perlomeno dal punto di vista del cinema tradizionalmente considerato commerciale, c'è più prodotto ed è per questo anche che abbiamo avuto questo segno positivo. Magari se vogliamo sottilizzare, in questo periodo c'è meno cinema di qualità presente nelle sale. Noi sappiamo che il pubblico del cinema è formato da più pubblici, sia attenti al cinema diciamo così, di grandi avvenimenti, tecnologia e di grande azione, e al cinema un po' più riflessivo, di immagini, attori e così via. È chiaro che questi due pubblici poi formano i famosi 100 e passa milioni di spettatori in un anno. È da 20 anni che in Italia si viaggia su questo numero di spettatori, quindi si potrebbe anche aspirare ad avere un numero di spettatori più cospicuo, pensando al fatto che paesi a noi vicini, con lo stesso numero di abitanti e con un numero di sale poco più elevato, riescono a fare il doppio di spettatori. Secondo me è un problema anche di sistema, e quindi noi ci dobbiamo porre il problema nel sistema, sia a livello di distribuzione di 12 mesi all'anno di uscita di film interessanti, sia di non cannibalizzare quando ci sono dei bei film e farne tanti nello stesso momento. Cosa sulla quale ancora molto spesso si scivola, dicevamo prima in apertura di trasmissione, che per esempio è stata una sorpresa estiva, che è ancora molto molto viva, quella di Jurassic Park, Jurassic World, il nuovo episodio che arriva 20 anni dopo una saga, e forse nessuno si aspettava 500 milioni di dollari in America e comunque 12 milioni di euro in Italia, con il film ancora in pieno sfruttamento. Ecco, quante di queste perle servono per ritrascinare una stagione cinematografica estiva che poi sia soddisfacente per raggiungere il famoso obiettivo finale? Ma guarda, servono i blockbuster, no? Quelli che ti fanno più di 10 milioni di euro di incasso, che poi sono 1,5 milioni, 2 milioni di spettatori per film. Ma serve anche molto il fatto che molti film, diciamo così, medi dal punto di vista dell'incasso, possono attestarsi. Per fare questo abbiamo bisogno di due cose: uno, di avere una distribuzione un po' più diciamo così lenta e non così verticale come l'abbiamo avuta in questi ultimi periodi, no? Tante copie per stare in programmazione 3 settimane, invece cioè, dobbiamo trovare le vie di mezzo. Una volta si andava al cinema e un film stava fuori 6 mesi, no? Perché c'era la prima visione, il proseguimento, eccetera. Adesso sta fuori 2-3 settimane. Si tratta di trovare le giuste vie di mezzo e fare in modo di dare agli spettatori la possibilità di fruire di quel prodotto in una maniera più adeguata. E dall'altra parte dobbiamo comunque pensare al fatto che le città, piccole, medie e grandi, sono diverse, diciamo così, da una fruizione per esempio di luoghi non periferici, però senza agglomerati urbani così importanti, che sono diciamo così grandi multiplex, eccetera. Lì c'è prodotto diverso. Allora li dobbiamo mettere un po' insieme queste due cose e capire se il cinema nazionale ed europeo può stare sia in un posto che nell'altro, e se il cinema, diciamo così, spettacolare può stare in un posto piuttosto che in un altro. E questo è il grande obiettivo che dobbiamo avere dal punto di vista di chi si occupa di questo mercato. Lionello, 30 secondi per dirci, perché tu sei anche uomo di cinema, diciamo, sul piano produttivo, uno dei produttori, insomma, che hanno sfornato le cose più interessanti degli ultimi anni, quale sarà il tuo contributo come produttore alla prossima stagione cinematografica? Su cosa stai lavorando? Ma noi stiamo finendo un film su Milano, visto che siete all'Expo, mi capirete, nel senso che noi stiamo facendo un film fatto da 6 registi, 3 diciamo così registi affermati e 3 opere prime, ma di illustri personaggi nel loro ambiente che si cimentano per la prima volta a fare una regia su Milano 2015, e quindi racconteremo questa città che si è completamente trasformata nell'ultimo periodo e che secondo me è diventata molto più bella e più accogliente, eccetera. E questi registi sono Silvio Soldini, Giorgio Diritti, Walter Veltroni, e le 3 new entry sono Cristiana Capotondi, Elio di Elio le storie tese e Roberto Bolle, l'Étoile de la Scala. Vabbè, ah, insomma, quindi, parterre variegato, diciamo così. Certo, e che racconteranno Milano da tutti i vari punti di vista, sia culturali che sociali, e siamo molto contenti perché siamo alla fine del film e abbiamo visto cose molto molto belle e quindi speriamo. Quando uscirà Lionello? Io credo per settembre. Perfetto, allora non ci sarà neanche tantissimo da aspettare. Grazie a Lionello Cerri che ci ha raccontato un po' le cifre ma anche l'anima del cinema e ci risentiamo presto. Ciao Lionello. Ciao, grazie. È arrivato il momento adesso di parlare di cinema invece da vedere in casa con Giulio San Giorgio e con gli amici della redazione di Film TV. Giulio, sei già in linea? Sì, ci sono, ciao Franco. Eccoti, ciao anche a te da Expo Milano, qui dal padiglione Cibus e Italia. E allora, intanto, come sempre, cominciamo con il risolvere il game della scorsa settimana. Che ci trovi, De Puff? Tommy, non hai capito, lui vuole... No, aspetta. È Cresciutello, sa quello che dice, che dici? Buffo come? Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. E allora si trattava di Quei bravi ragazzi, l'avete indovinato in molti, questo che è diventato ormai un classico, che adesso nell'edizione del 25esimo anniversario esce con un cofanetto Blu-ray molto molto ricco, di cui adesso ci parlerà Giulio San Giorgio. I vincitori, Nicola Ballandi, Castelfranco Veneto e Adriano Fastelli di Roma, sono i primi ascoltatori ad aver indovinato il nostro film misterioso di 7 giorni fa. Giulio, davvero un film che ha segnato un modo di raccontare il gangster movie. Sì, per festeggiare i 25 anni di quello che è uno dei migliori film di Martin Scorsese, che è un film che sa essere insieme uno scandaglio antropologico nei rituali mafiosi, una tragedia e un concentrato di cinema esaltante e purissimo, si è scelto di fare le cose in grande. Quindi Scorsese ha supervisionato la scansione a risoluzione 4K da negativo originale, che significa che il film torna a risplendere in prossimità della versione vista al tempo al cinema. L'audio originale lossless è ottimo e quello italiano invece un po' piatto, perché non riesce a stare dietro allo stupore delle immagini restaurate. La compressione è bassa perché si è scelto di mettere gli extra in un secondo disco e gli extra sono letteralmente strepitosi. A parte due commenti audio del regista, del cast e dei veri protagonisti a cui il film è ispirato, ci sono 4 ore in cui si trovano documentari dietro le quinte, un film addirittura sui classici del gangster movie, storyboard, cartoni animati, e non finisce qui perché c'è anche un libro di 26 pagine e una lettera di Scorsese che accompagnano il cofanetto. Vabbè, davvero materiale che fa ricco oltre il cinefilo anche il collezionista, dobbiamo dire, quello di questo Blu-ray di Quei bravi ragazzi, che nel nostro game della scorsa settimana, velocissimi con le proposte dal palinsesto televisivo della prossima settimana in chiaro, cominciando da Blowout lunedì 6 luglio alle 23 su Rai Movie. Sì, un fonico è alla ricerca di un urlo con cui doppiare un filmaccio di serie Z, registra l'audio della dinamica di un incidente, salva una fanciulla ma non sa ancora di essere stato testimone di un omicidio politico. Uno strepitoso film di De Palma che aggiorna e omaggia Blow Up di Antonioni e La conversazione di Coppola, come sempre un'opera virtuosistica, piena di riflessioni sul cinema, sulla macchina dello spettacolo e della menzogna, sulla coscienza politica, e quindi veramente anche un film politico pregno di umori dell'era post-Watergate. E questo per quel che concerne Blowout. Invece Il treno per Darjeeling è in onda mercoledì 8 alle 21 su Iris. Sì, alla morte del padre, 3 fratelli si recano in India alla ricerca della madre. Se non fossimo in un film di Wes Anderson, diremmo che ci troviamo di fronte a un viaggio di formazione, ma in un film di Wes Anderson le cose sono più complesse di così. E allora vediamo i suoi protagonisti infantili, narcisisti, incapaci di capire il mondo, il loro mondo, figuriamoci l'India, chiusi in questi set a loro volta infantili e narcisi, in un treno che sembra un gioco, un giocattolo, e vediamo piano piano infiltrarsi in tutta questa chiusura lentamente la realtà. È un film elegantissimo, bellissimo da vedere e decisamente anche il più divertente di Wes Anderson, dove l'ironia è proprio nello scarto, nell'inadeguatezza ottusa dei personaggi rispetto al mondo. Grazie allora Giulio San Giorgio e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima, buon Expo. Grazie anche dall'Expo di Milano. È finita la Rosa Purpura di questa settimana, noi ci risentiamo la settimana prossima nel solito tradizionale orario, il sabato alle 18 su Radio 24, per raccontarvi tutto il cinema che c'è.